La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. Nulla come la guerra è capace di produrre eroi e di produrli dal nulla. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al volume edito dal Mulino Eroi della guerra, storie di uomini d'arme e di valore. Ospite ai nostri microfoni l'autore Fabio Mini. È stato capo di Stato Maggiore del Comando NATO del Sud Europa e comandante della missione internazionale in Kosovo. La parola adesso va a Dino Pesole. Le guerre da sempre hanno i loro eroi. Dalla mitologia, come dimenticare l'epico duello tra Achille ed Ettore, al sacrificio consapevole dei soldati del nostro tempo, dalla lucida follia degli arditi ai grandi condottieri del passato, Alessandro Magno in testa. L'eroe della guerra, scrive Fabio Mini in un libro appena pubblicato dal Mulino dal titolo Eroi della guerra, storie di uomini d'arme e di valori, ha sempre avuto un filo diretto con gli dèi, un collegamento che parte dai miti della creazione che tutti i popoli hanno sviluppato con sorprendenti analogie nonostante la distanza geografica. Sabato scorso, al Festival Internazionale di Storia di Gorizia, il tema sollecitato dal libro di Mini è stato al centro di un incontro dal titolo Eroi della guerra, la gloria senza pace. Un dialogo per riflettere appunto sugli eroi, figure in grado di affascinare, ispirare e motivare gli uomini di ogni tempo e in ogni luogo. Nulla come la guerra è capace di produrre eroi e di produrli dal nulla. L'eroe della guerra dell'antichità era creato e tramandato dai poeti, in media di un tempo. Oggi i saggi e i romanzi approfondiscono e incantano. Il cinema e la televisione fanno vedere il vero e il falso. La nuova epica si è globalizzata, traendo da vari modelli l'ispirazione all'eroismo. L'epica più affascinante nasce in realtà dalla maturità delle grandi civiltà. Il mito di Achille, quello di Enea e di Ulisse, si lasciava dietro la memoria delle loro gesta, che indicava un modello da imitare. In realtà, non tutti gli eroi della guerra muoiono in combattimento. Quelli che sopravvivono alle proprie imprese sono destinati ad alimentare l'epos con la testimonianza, il loro eroismo diviene un simbolo. È il caso del generale dell'esercito canadese Roméo Dallaire, nominato nel 1993 comandante della forza internazionale UNAMIRM, costituita dalle Nazioni Unite per la missione di assistenza in Ruanda, teatro, come sappiamo, della guerra tra Hutu e Tutsi, uno dei più cruenti genocidi dei tempi moderni. Tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994, il comandante canadese aveva segnalato a più riprese al Consiglio di sicurezza dell'ONU l'acquisto di armi, sia per l'esercito che per la popolazione civile e la squadra paramilitari, nonché la distribuzione di macete e armi improprie alla popolazione civile. Segnalazioni che non ebbero alcun seguito. Allo scoppio delle violenze, l'ONU decise di ritirare gran parte dei caschi blu, mentre Dallaire chiedeva di raddoppiare gli uomini a disposizione per fermare il genocidio. Non avvenne. Anche questi appelli rimasero inascoltati. La vicenda si concluse con 1 milione di vittime in soli 100 giorni. Dallaire continuò a comandare, impotente, l'esiguo drappello dei 300 caschi blu fino alla fine del genocidio. Abbiamo in linea Fabio Mini che con il suo libro Eroi della guerra, storie di uomini d'armi e di valore ha ispirato il nostro approfondimento odierno alla storia e alla memoria. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Io partirei con lei proprio dalla vicenda di Roméo Dallaire, che è un po' emblematica del suo discorso, del suo viaggio, chiamiamolo così, che ha condotto tra queste figure che poi sono gli eroi della mitologia in certa misura, ma anche gli eroi dei tempi moderni, eroi che forse magari non sono riconosciuti come tali, ad esempio la vicenda di Roméo Dallaire. Sì, è stata un percorso proprio attraverso tutti quegli uomini che in un modo o nell'altro hanno modificato l'archetipo e quindi lo stereotipo, se si vuole, dell'eroe. Ecco, Dall'Erlo messo per ultimo perché secondo me è la figura eroica ultima, attualissima, del comandante militare impotente, del comandante militare che vorrebbe fare, che crede fortemente in quello, nella sua missione, ma non gli vengono dati gli strumenti, la politica oppure gli imbrogli della politica e le meschinità della politica, anche internazionale in questo caso, perché Dall'Erlo era alle dipendenze delle Nazioni Unite, ecco, riescono a stroncare un uomo, e questo uomo è praticamente, io l'ho scritto nel libro in senso metaforico, ma è morto in Ruanda assistendo all'eccidio di, i numeri sono diversi, da 800.000 a 1.200.000 trucidati, quasi tutti all'arma bianca. Quindi questa impotenza, questo comandante militare che diventa eroe perché anche lui percorre va in un precipizio, entra in un circuito di depressione, di medicinali, psicofarmaci, alcol, in quella maniera muore anche quasi fisicamente, o almeno si avvicina molto, fino a che non viene trovato esausto, stroncato sotto una panchina in un parco del Quebec. Ecco. Da questo punto di vista, ovviamente dal suo libro si capisce benissimo, un conto sono gli eroi della mitologia che avevano un epos, un fascino e anche un'aurea quasi mitica, perché erano in contatto con gli dèi, scrive lei. Un conto sono gli eroi dei tempi moderni, eroi delle guerre moderne, se vogliamo. Emerge questa differenza dal suo libro, non crede? Sì, certo, ed è una differenza sostanziale. Io cerco di portarla per gradi, di portare il lettore un po' per gradi, partendo proprio da questa invenzione umana del dio della guerra, che in pratica ha tutti gli attributi peggiori che oggi si potrebbero incontrare su un campo di battaglia, come Marte, Ares, e come gli altri eroi, quali sono eroi, ma eroi di un tempo diverso e in cui i parametri dell'eroismo erano misurati in un'altra maniera. Oggi si misura l'eroismo anche tanto in umanità, in comprensione, non solo in capacità tecnica di uccidere. Attraverso questo percorso si vede, si nota la differenza di stereotipo e di tipo proprio dell'eroe moderno, che ovviamente non è solo quello di Dall'Erlo, il modello. Certo. Il modello è anche quello dell'eroe normale, del combattente normale, che in pratica impersona tutte le facce, le sfaccettature di tutti gli eroi che l'hanno preceduto, e lui magari inconsapevolmente interpreta in questa maniera veramente multicolorata. Sì. Tutti gli eroi che l'hanno preceduto. Ecco, la sua esperienza, perché appunto raccontiamolo ai nostri ascoltatori, lei è stato militare. Certo, sì. In che modo, ecco, ha inciso sulla sua scelta poi di dedicare un libro alle figure degli eroi? Beh, è stato fondamentale. Io non sono uno scrittore e non sono un letterato o un filosofo, meno che meno un filosofo. Sì. Quindi ho cercato di raccontare come un soldato oggi è formato all'insegna di una moltitudine di esempi di eroismo, e lui stesso è un autore di un altro modello eroico. Ed è un soldato che ovviamente non se ne rende conto, ma che ha in sé tutti i caratteri di quelli che sono stati grandi. Ovviamente questo un elemento fondamentale perché l'eroismo venga fuori è l'epos, l'epica, il racconto. Bene, oggi io cerco di mettere in evidenza anche nel libro e raccontare la storia, raccontare la storia di quelli che combattono, di quelli che vivono in guerra, di quelli anche che vivono per la guerra. Ecco, raccontare è diventato un'altra forma di guerra. nell'ambito della guerra psicologica oggi c'è la guerra della narrativa. Chi racconta meglio la propria storia è quello che probabilmente vince. E oggi nell'ambito anche in Afghanistan, così come è stato in Iraq, quando si ha a che fare con culture diverse, l'imperativo, come dicono gli americani, è quello di winning the narrative, cioè vincere la narrazione, far prevalere la propria narrazione, il proprio racconto su quello degli altri. Sfortunatamente i racconti degli altri sono più credibili e più verosimili dei nostri. La ringrazio molto e complimenti per il libro. Grazie a lei, arrivederci.